Pane, burro, rock and roll, 8:01. Benvenuti. Pane, burro e rock and roll. Anche a voi appena svegliati. Ciao. La tua colazione rock. Questa è la colazione del futuro. Ogni giorno alla mattina ascolta. Che scemo. La prima ora è stata una prima ora intensa e dura e affrontiamo questa seconda con un filo di paura. Un amico da Rotterdam abbandonerà il suo appartamento giovedì prossimo e si deve vendicare della sua vicina di casa, un'inglesotta, che tra l'altro non gliel'ha neanche data, che organizza party di musica dance tutta la notte. Ne sono già arrivati una spilza, ve ne renderò conto tra poco. Un radioascoltatore ha avuto un incubo, ci ha sognato e ha chiesto gentilmente se potevamo trasformare il suo sogno in numeri. Non solo! Carla, la nostra amica portinaia, sta preparando i tarocchi e forse la sentiremo nella seconda ora di diretta di quest'oggi. E poi ce n'è tante altre di robacce da fare, restate con noi. Che è la sezione C questa? Sì, professore. Deve essere il nuovo supplente di filosofia. Sto supplendo da filosofia, supplisco in filosofia. Poi da molto anno oramai. Allora facciamo così, farò un'interrogazione, eh? Interroghiamo. Lo vedo terrorizzata, vero? Interroghiamo, vediamo un po'. Pruncoli, c'è pruncolo in classe? Perché basta mettersi una cremina e lui sparisce. Sarebbe meglio eliminarlo, comunque togliamolo. No, interrogherei, diciamo... Arturo il Beccalozza, per la lettera Il, eh? Dove sei? Dove sei, Arturo? Beccalozza in piedi! Che sei, Arturo, tu? No, Patrizia, Beccalozza è fuori in bagno. Smoking pistol. I've never done good. stuck out in heaven's light, living an all-time road. My mother said, to get things done, you better not mess with Major Tom. My mama said, to get things done, you better not mess with Major Tom. My mama said, to get things done, you better not mess with Major Tom. My mama said, to get things done. Sguardo di Rock FM sul mondo, siamo rock a 360 gradi. È il villaggio globale, caro Ariel. Non possiamo esimerci dal contatto con gli altri, ma soprattutto con lui. Piccolo, una peste. Ah, la nostra piccola cara peste, Francesco, il bambino terribile. Dovremmo che ama l'heavy metal. Averlo in linea, pronto Francesco? Pronto. Ma che sussurri, Francesco, ci senti? Pronto? Sì, lo sento, c'è Bidello in giro. No, ma perdonami, eri in digestione? No, Bidello. Stavi digerendo? No, Bidello, sembrato. Bidello, io c'entro. Vabbè, ma sei in bagno e c'è il Bidello che ti cerca. No, ma di derrotto! Ah no, vabbè, quello perché ho mangiato la crostatina metal stamattina. E com'è la crostatina metal, scusa? La crostatina metal è come a marmellare dei martelli! Senti, Francesco. Allora, ieri ci siamo. Due, non si fa troppo, capito? Allora fai ruttini. Allora, che sei uomo se fai ruttini. Sì, papà dice che sei uomo se fai ruttini, l'abbiamo capito un po' tu, papà. Senti un po', ieri ti abbiamo lasciato che stavi facendo un atto vandalico, Francesco. Stavi scrivendo heavy metal. Stavi scrivendo heavy metal is the law in bagno. Eri arrivato a heavy metal. Sì, heavy metal, sì. Oggi? Il bidello, Tommy Lee. Scusa, come si chiama il bidello? Come si chiama il bidello? Tommy Lee. Scritto proprio Tommy Lee, di nome. Sì, di cognome Tommy Lee Brozzi. Va bene, il bidello Tommy Lee Brozzi. Ma inizio a non crederci scuola, che è strana scuola. Che è successo? Ti ha beccato? Ma beccato me voleva, meno me voleva dare i gessetti sulle mani e batte sulle mani, capito? Sì. E io non ce volevo fare, però. Ci credo. Mi faceva male, no? Ci credo che fa male. Sono scappato. Sì. E poi? Poi a un certo punto però mi ha trovato e io sono scappato di nuovo. Sì. Quindi la scritta è ferma a heavy metal. Mo sta a finire, voglio chiamare perché non so sicuro come si scrive L, perché non c'è dietro il giornale mio, no? Allora, come si scrive L o accento? Quindi hai scritto anche is the. Ho scritto adesso. No, lo è legge. Si scrive L-A-W. Sì. È inglese? È inglese, sì. Gli Iron Maiden. È come gli Iron Maiden, esatto, sì, esattamente così. L-A-W, sai scrivere la W? È come Wasp. Come Warlord. Come un Warlord. Bravo. Bravo, lui c'ha i suoi parametri fissi. Comunque io sto a parlare a bassa voce perché se poi sto bidello mi vede, sì, mi sente. Sì. Dopo è un casino perché lui sente che sto a parlare con voi. Sì. E lui c'ha sta figlia. Sì. Sta figlia che si chiama Britney Spears Brozzi. Sì. E è una reginetta del pop. No, allora le fa sfondare il pop. A me fa schifo, sai, delle foto, a me mi piace, capito? Allora, nel senso che lui ha scoperto che parli con noi della radio? Sì, ieri mi ha sentito, ma io non sto a parlare con nessuno, sto a parlare con amico mio, Rock FM. Allora vuole, capito, sfondare il campo del mondo della musica, figlia. Vuole una spintarella. Esatto. Vuole una promozione. Tu hai sentito questa figlia come canta? No, ma io non mi interessa, l'ha fatto vedere, fatto. Ma l'hai vista? Il pop a me fa schifo, ma io sono metal. Zello per pancare. Francesco, sono metal. No, giustissimo, Francesco, ma tu l'hai vista questa figlia? Britney Spears. Sì, c'hai frecce, ma poi c'ha 9 anni, cioè, niente, capisci? Giovane, io sono nata, non mi interessa. Non ti interessa, va bene. Lasciamolo stare, dai, insomma. Ma raga, scusa, un attimo, una cosa importante. Sì. La candeggina è metal? Come? La candeggina è metal? No, la candeggina è pericolosa. È pericolosissima. Allora mi sa che devo scappare, che sta arrivando Tommy lì con un secchio di candeggina e vuole cancellare tutto. Ciao, scappa Francesco, ma non farti, cade la linea, non farti prendere. Ma è pazzo questo bidello, con tirare candeggina. La candeggina a un bambino. È da denuncia, lo denunciamo, Tommy Librozzi, ti beccheremo. La candeggina, ma il mondo dove sta andando così pazzo? There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn, nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. I think it's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street, singing songs and carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Paranoia strikes deep, yeah. Into your life it will creep. All right. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going. We better stop. Fortuna che ci sono i Buffalo Springfield a riportarmi un po' di tranquillità in questa giornata delirante di pane, burro e rock and roll. Ragazzi, via SMS vi siete scatenati, è il vero delirio, tanto che ho già risentito Mattia da Rotterdam, mi sono organizzato con lui, lo sentiremo poi settimana prossima prima della partenza. E gli giriamo le vostre segnalazioni per vendicarsi della vicina inglesotta che fa i party di musica dance. Ma occupiamoci di un altro problema di pane, burro e rock and roll, la gara degli ascolti. Dovremo vincerla e sicuramente la vinceremo, perché vi ricordo, la nicchia vincerà anche grazie all'intervento di Andrea Patente 147, sempre pronto a studiare la concorrenza. Ciao Andrea. Ciao Iele, è uno sporco mestiere, ma qualcuno deve pur farlo. Allora, in settimana ti stavi occupando di R101. Sì. Esatto. Abbiamo già fatto un intervento, il programma mattutino, la carica di 101. Sì, con Cavallone, Sironi e Lopez. E Massimo Lopez. Del trio Marchesini Solanghi Lopez. Proseguiamo. Sì, diciamo che un programma, come dicevo l'altra volta, ha fatto totalmente di imitazione. Ok. Abbiamo già scoperto nell'altro intervento che Lopez imita Fricantoni, che imita Mike Buongiorno. Infatti il primo plagio che abbiamo l'abbiamo trovato. Okay. E io ho trovato un altro. Aia. Perché questa settimana è andata in onda una puntata particolare, perché non c'erano i due conduttori principali. E quindi hanno i tappabuchi, si sono nominati così, ma in pratica erano altri due DJ di altri programmi, erano Max Novaresi e Marco Desi. Hanno fatto un programma tappabuchi. Dario Desi. No, perché lo conosco, uno simpatico anche, poverino. Vabbè, allora, niente. No, no, niente, lo saluto nel caso ascoltasse. Prego, prego. Okay. Hanno fatto praticamente un riassunto di altre, una sintesi di altre cose, tra cui c'era una rubrica molto personale, Hot, che in genere va in onda di notte. Questa rubrica raccoglie le segnalazioni di ascoltatori dei sogni che fanno di notte, in modo particolare i sogni un po' più piccanti. E questo è già un qualcosa di carino. Cioè tu dici quello che abbiamo fatto noi oggi. Ma sì, sostanzialmente quello non che... Non era Hot il sogno. Non era Hot il sogno, infatti ci siamo avvicinati. Ma quando il plagio ricorre... No, però quando... aspetta, prima che cambi argomento, sì. Però loro non ce l'hanno, Carla, la portinaia che fa i tarocchi sul sogno? No, no. No, e allora? No. E allora stiamo avanti. Che ci frega a noi? Vai, prosegui. Sostanzialmente quando l'ascoltatore racconta il sogno, loro poi lo traducono in numeri dell'otto. Arega! E quindi questo è un altro evidente. No, ma no, Andrea, dai, basta parlare di plagio. Sono classici questi, non è plagio, dai. Ho capito che tu ti schieri a nostro favore in qualsiasi momento. Ma me la stai un po' sforzando questa. È sforzata, dici? È un filo, sì. Nient'altro fanno? Caspita, hanno tre ore di diretta, fanno solo questo. Sostanzialmente, innanzitutto il programma è pieno di interventi news, pubblicità. L'avevi detto. Questo, e poi, comunque sia, gli imitatori sono tanti, cioè fanno Del Noce, Tremonti, Napolitano, tutti agganciati molto anche a fatti o di attualità o di politica. Fanno Giurato, il Cardinal Tonini, Letizia Morassi, Lapo. Senti, adesso che Freak non ci ascolta, che dirà in redazione te la sentiresti di consigliargli qualche imitazione? Cioè cosa proporresti a Freak? Ma no, ma non lo so, niente di politico. Anche no, però. No? Sì, anche no. Sì, esatto. E poi scusa, loro ci avranno i sogni Hot, ma non ce l'hanno Rosy che fa vedere i maschi nudi. Assolutamente, no. Allora guardi. Le maschi nudi, le femmine nude, insomma. Restiamo sul nostro selciato che è meglio. Per adesso sicuramente è meglio, anche perché ci copiano, quindi. Andrea, settimana prossima che cosa ti divertirai a ascoltare? Hai già qualche idea? Io vorrei scontrarmi contro Virgin. Virgin Radio? Sì. Dai, è il momento, è il momento. Hai ragione, abbiamo procrastinato perché stavamo aspettando che attaccassero con i parlati, non attaccano. Qualcosa parlano, cioè in qualche trasmissione. Ne parleremo settimana prossima. Dai. Andrea studierà Virgin Radio. Preparati! Grazie. Ciao. steps behind. Yeah, Santana, Clapton. Beh, loro sono maestri della chitarra. Amici, fidatevi di noi. Voi non diventerete mai come loro, o meglio, non lo diventerete mai se continuerete ad ostinarvi a voler suonare la chitarra con le dita. 1, 2, 3, 4. Pane, burro e rock and roll vi dà l'occasione di diventare chitarristi rock con la bocca. Iscriviti al provino gratuito inviando un SMS al 335-100-7777 con la scritta rock con la bocca. Sì, sì, non perdete l'occasione di riscrivere la storia del rock con la bocca. Some kind of wonderful, yes she is. She's some kind of wonderful. cuore di pane, burro e rock and roll. Può dirlo forte, maestro. Grazie, DJ Ariele. Prego. Può assomigliare, sì, con un po' di forzatura, sì, perché è molto, ma molto più serio, sì, ad un tradizionale quiz. È un quiz, il test attitudinale. Infatti, il sancta sanctorum del programma. Una domanda, tre le possibili risposte e tuffiamoci a bomba sulla domanda di quest'oggi. Negli anni Ottanta, la Warner Brothers, celebre casa cinematografica, ha rifiutato ai Monty Python, celeberrimo gruppo di comici inglesi, la richiesta di produzione del film Life of Brian, che poi in Italia vedremo con il titolo Brian di Nazareth, un bellissimo film. Il film in questione fu prodotto da un personaggio di spicco del mondo del rock. Questo a dimostrazione che il rocker, la rockstar, poi nella vita può anche produrre un film di successo. Ricordate chi produsse insieme ai Monty Python Life of Brian? Prego, maestro. Ipotesi A, Mick Jagger. Forse lui? Ipotesi B, seconda opzione, Bruce Springsteen. È stato lui, oppure? Terza ed ultima possibilità, ultima opzione, George Harrison. Chi ha prodotto insieme ai Monty Python Life of Brian? Ditelo subito, ditelo ora. La soluzione, come al solito, ve la diamo tra poco, e cioè la risposta esatta a subito dopo.